and gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Con Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. Torniamo in onda su Radio Miami International, di conseguenza sulle onde corte. Questa è I Love Italy, il vostro contenitore che parla italiano in 15 minuti. Alla conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dagli studi dell'Oltrepò Pavese. Resteremo insieme per circa 15 minuti ospitati sulle poderose antenne di Radio Miami situate a Okeechobee in Florida. Ci potete sentire su svariate frequenze. Io vi cito le principali: 7730 kHz, i 15.770 kHz, e poi c'è anche un'altra frequenza dei 5.850 kHz. Comunque vi invito sempre a visionare il sito www.wrmi.net, perché il programma potrebbe subire delle variazioni di emissione, quindi date un occhio sempre a www.wrmi.net, oppure potete anche dare un occhio al mio sito www.andreamangiarotti.com oppure www.voiceofitaly.it. Lì trovate tutti i vari riferimenti per ascoltarci un po' di biografia di questa trasmissione. In apertura, come sempre, abbiamo tanti saluti da fare quest'oggi. Saluto e ringrazio ancora una volta Graziano, Andrea e Roberto del programma Spazio Obiettivo di X, in onda ogni domenica mattina alle ore 11 ora italiana, 10 UTC, sulla mitica frequenza dei 9610 kHz di AVR Italia. Quindi saluto Roberto, Graziano e Andrea, perché mi hanno concesso una simpatica chiacchierata domenica 19 novembre 2023. Ora iniziamo a leggere qualche rapporto di ricezione ricevuto. Caro signor Andy Mangiarotti, spero che tutto stia procedendo bene. È stato un piacere ascoltare il tuo programma in italiano qua dall'Australia. Ah, formidabile. Desidero inviare il mio rapporto di ricezione come segue: data della trasmissione 22 novembre 2023, orario di trasmissione 01:15 UTC, 01:30 UTC, frequenza dei 5850 kHz, quindi siamo stati ascoltati in Australia. Il simpo che l'amico Bruce Lee ci ha citato è 34333. Poi mi ha menzionato i dettagli dell'ascolto, ciò che ho detto e ciò che ho parlato. Commento finale: qualità sufficiente, nessuna stazione interferente, qualche rumore di fondo, anche se non capisco l'italiano, sono contento di poter ascoltare la tua trasmissione per caso. L'Italia è un paese magnifico, affascinante, davvero molto desiderabile. Ci ha ascoltato con un ricevitore Kiwi SDR, antenna loop full way 80 metri, in allegato un breve file audio registrato appunto il 22 novembre. Ho ascoltato l'audio, è interessante, veramente interessante. Grazie all'amico Bruce Lee, continuiamo dall'Australia, continuiamo con un altro rapporto di ricezione, questa volta dall'amico cinese. Cara Double Aremai, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina, ho ricevuto il segnale del vostro programma in lingua italiana data appunto 4 novembre 2023 alle ore 21 UTC, sino alle 21.15 UTC, sulla frequenza del 15.770 kHz. Segnale molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro. Vorrei chiedere una cartolina QSL cartacea, anche la QSL va benissimo, se ci sono dei souvenir del programma e così via. Il mio rapporto di ricezione è il seguente, orario di ricevimento 4 novembre 2023, 21.15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura ricevente, radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione lo Jianjin, provincia dello Jiangsu, Cina, ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio ma c'è un po' di rumore di sottofondo. Proprio il mese scorso, ottobre, ho finalmente ricevuto la mia QSL di settembre da parte vostra, mi piace molto la cartolina con il vostro contenuto, mi piacciono tutti i programmi della vostra stazione e se potete gentilmente inviarmi un'altra cartolina QSL. E poi l'amico cinese ci ha riscritto perché io ho risposto, è doveroso farlo a tutti gli ascoltatori, e la sua risposta è molto bella, vi vado a leggerla. Caro Andrea, è stato un piacere ricevere una risposta così calorosa e amichevole da parte vostra. Non so quando ho iniziato a nutrire un forte interesse per lei, per i programmi che conduce, nonché per Double Aremai. Hai ragione, anche se siamo lontani l'uno dall'altro, perché io gli ho scritto che siamo molto lontani, però la radio ci unisce, i segnali di trasmissione ci collegano strettamente. Attendo con ansia il suo programma ogni sabato alle 21 UTC, domenica alle, appunto, domenica orario cinese. Grazie al suo programma la mia vita si è arricchita, quindi vi ringrazio molto e vi dico sinceramente grazie per la vostra compagnia di quest'anno. Sono sicuro che la nostra amicizia durerà per sempre. Come ha detto lei, la Cina e l'Italia sono entrambi paesi antichi con una lunga storia e civiltà. Il rapporto tra i due paesi durerà sicuramente per sempre. Questo è il mio desiderio e quello di tutto il popolo cinese che ama la pace, bellissima. Spero che nel prossimo 2024 il vostro show migliori sempre di più e che il vostro pubblico cresca. Grazie ancora per aver prodotto e trasmesso un programma così bello, vi auguro tutto il meglio. Auguri dalla Cina. Auguri caro Ding Lun, gentilissimo come sempre. Ora dalla Cina torniamo alla nostra bella Italia, un altro bel rapporto di ricezione, lo vado immediatamente a leggere, rapporto di ricezione per il programma I Love Italy, Double Aremai. Buongiorno, ieri sera ho avuto l'opportunità di ascoltare attraverso le trasmissioni di WRMI il vostro programma I Love Italy. Di seguito riporto i dati della mia ricezione, data di ascolto 9 dicembre 2023, orario 21.01 UTC sino alle 21.14 UTC, frequenza dei 15.770 kHz, qualità della ricezione e SIMPO 35222. Segnale mediocre, presenza di un forte rumore di Falding. Ricezione, utilizzo il Sony ICF201D con antenna filare. Qui i dettagli del programma ascoltato, programma in lingua italiana alle 21.02, annuncio orario e frequenza della trasmissione, indirizzi per rapporti di ricezione e così via. Poi mi ha ricordato quello che ho detto, di che cosa abbiamo parlato, eccetera, eccetera. Gigi Nadali da Milano, grazie veramente anche a te Gigi, e appena possibile spediremo la QSL cartacea, perché adoro, come ben sapete, le QSL cartacea, non certo le cartoline, quelle virtuali. Certo, li mandano moltissime radio, però io sono un personaggio, come si suol dire, all'antica. E ora vi voglio parlare di una cosa molto carina, anche se il promozionale è in inglese, perché ci ascoltano in tutto il mondo. Comunque adesso poi vi spiego di che cosa si tratta. Lo lanciamo in onda. In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good. www.andreamangiarati.com. E questo era il promozionale che abbiamo fatto in lingua inglese perché ci ascoltano in tutto il mondo. Però in breve che cos'è? Ringrazio la mia amica Sara che insieme a me collabora alle trasmissioni di una radio locale italiana, possiamo dire anche il nome, e salutiamo anche gli amici di Radio Cantù FM 89.6 nel caso fossero all'ascolto, sicuramente qualcuno c'è all'ascolto, quindi io li saluto. La nostra Sara di questa radio mi ha dato un'idea. Un giorno mi fa, ma perché non mi fai un jingle per un cliente? Detto, va bene, te lo faccio, però ovviamente non voglio nulla. E ho fatto questo jingle, poi mi è venuto lo spunto, ho pensato, ma perché non facciamo un qualcosa di carino e soprattutto benefico? E allora ho pensato questa cosa. Se vi piace la mia voce che state ascoltando, potete contattarmi, ovviamente potremmo fare una breve collaborazione, potrei prestare la mia voce se vi va per farvi un jingle, una pubblicità, uno spot e così via. Il ricavato di quello che voi dovreste retribuirmi verrà completamente, assolutamente devoluto in beneficenza dal sottoscritto. Ovviamente sarà tutto tracciato, i vostri soldi verranno da me appunto ricevuti, tracciati e avrete una copia del tracciamento dell'associazione Ollus o cooperativa benefica a cui vengono destinati i soldi. In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good. www.andreamangiarati.com. Grazie ancora per avermi ascoltato, io sono arrivato in fondo, ringrazio Jeff White e tutti voi per avermi ascoltato ancora quest'oggi qua da Double RMI. A Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, sempre con un nuovo episodio, un nuovo appuntamento di I Love Italy. Buongiorno a tutti o buona nottata, dipende da quando ci ascoltate nella vostra nazione. Grazie ancora Jeff e un salutone e un abbraccione dal vostro Andy Mangiarotti. Ciao ciao, grazie, ciao. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. www.andreamangiarotti.com. I love Italy, yeah. I love Italy. Don Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy.